Costa Bona. Aguera al maig, guera en calçulma per quei que canten maig, e maig verde. Del gran cantate di Tinker qualcosa in fa. E a Costa Bona e anche a me.